Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare. All'inizio ho paura di ritrovare pezzi di vetro levigati dal mare e conchiglie semisepolte nella sabbia. All'inizio ho paura di incontrare un amore divenuto disprezzo. All'inizio non c'è mai stato un disprezzo trasformatosi in amore. Questo sì, è un buon inizio. Precario non un termine gentile come ace e puzza di vernice che ricopre della pece. Ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse, sarò la dolce alba pure una splendida eclisse. Precario non un termine gentile come ace e puzza di vernice che ricopre della fece. Ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse, sarò la dolce alba pure una splendente eclisse. Precario non un termine gentile come ace e puzza di vernice che ricopre della fece. Ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse, sarò la dolce alba pure una splendida eclisse. Precario non un termine gentile come ace e puzza di vernice che ricopre della fece. Ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse, sarò la dolce alba oppure una splendente eclisse. Passavo qua per caso come brega a quel semaforo. Ho letto quell'oracolo di un posto di lavoro che è sicuro come un pasto per chi rumina e rovista dentro buste di monnezza. Io che vedo solo il prezzo e poi riposo. Tu che acquisti e poi riposi sopra un'amaca d'argento conquistata con un voto. Modifica l'orario della sveglia all'orologio. Se sei moggio io rimbalzo come fossi dopo Gigio. Inizio viaggio, strade che rincorrono dell'oro andato perso. Personaggio che mi è parso di vedere sempre peggio. Siamo a maggio ma il coraggio è terminato a fine marzo. Io non malzo con la clinica d'avorio e con tatase. Prima fase, metto base con la frase come viscio le compagne. Allora fuggi ma non mordi. Sono più rincoglionito di Alex Tortora che parla come sordi. Liscio come l'acqua fiuggi. Qui di soldi giusto giusto ci si pagherà il pezzone. E di certo una canzone non mi cambierà la vita. Ho bisogno di ricarica infinita. Ma la storia dove il nulla poi si mangerà ogni cosa sembra solo una partita dove dama e cavaliere si contendono un diamante che è per sempre. Ma per fare le vacanze la madama sofferente lo rivende all'offerente che è il migliore dei compagni. Ma in Italia il fotte e magna è normale sta ministra, la ministra a cui si mostra senza veli sulla splendida rivista. Chi l'ha visto cielo cielo cielo manca e chissà quante botteghe ha fatto aprire. E ci mancherebbe pure che poi andasse dentro le botteghe oscure. E quando non mi cerchi come un grillo che non salta, e quando non mi chiami come una puffetta alta, e quando mi sorride il tuo datore di stipendio, dove appendo questo pendolo se ho stretto l'abitacolo? Precario non un termine gentile come ace e puzza di vernice che ricopre della fece. Ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse, sarò la dolce alba pure una splendida eclisse. Precario non un termine gentile come ace e puzza di vernice che ricopre della fece. Ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse, sarò la dolce alba pure una splendente eclisse. Precario non un termine gentile come ace e puzza di vernice che ricopre della fece. Ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse, sarò la dolce alba pure una splendida eclisse. Precario non un termine gentile come ace e puzza di vernice che ricopre della pece. Ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse, sarò la dolce alba oppure una splendente eclisse. Principe che gioca a fare il re ma più il reietto, a chi dopo bevuto fa il rigetto. Se un gregge caro lollo bello arzillo eppure manco te ne accorgi, e sembri scarafaggio che passeggia dentro un parco. Precario con orario alternativo, lo capisci o sei tardivo più di Ivo? Qui lo nego con deniego e qui lo scrivo, ed Ivi rappresento il mio tormento. Niente Yoshi Torenaga, ho bisogno di una diga. Illumini con lumi le tue feste di barocco, ma sono un rococò più deleterie dell'intonaco di marmo. Giocando a fare chi è il più alternativo, sei come un digestivo quando il cesto in casa è rotto. E dopo aperitivo tiri coca io mi tiro, ma poi dopo non ho certo servi tu che a tu per tu mi ninna il pargolo. Conviene che sistemi quel binocolo, io vedo tutto chiaro mentre tu vedi sfocato il mio abitacolo. Se giochi a filo prodigo sei pratico di pezzi da 50 e portafogli. Se master come cardio tengo il banco nella posta, tu posti le conquiste che hai pagato solamente. In realtà sono invidioso, io l'emosino, tu c'hai un appartamento come dono di battesimo. L'ennesimo dei ricchi che poi gioca a fare il povero e si plasma che l'enigma più pesante è viaggio in India o nuovo al plasma. Precario non un termine gentile come ace e puzza di vernice che ricopre della fece. Ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse, sarò la dolce alba pure una splendida eclisse. Precario non un termine gentile come ace e puzza di vernice che ricopre della fece. Ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse, sarò la dolce alba oppure una splendente eclisse. Precario non un termine gentile come ace e puzza di vernice che ricopre della fece. Ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse, sarò la dolce alba oppure una splendida eclisse. Precario non un termine gentile come ace e puzza di vernice che ricopre della fece. Ti piacerebbe se pure tua figlia ne morisse, sarò la dolce alba oppure una splendente eclisse.